nel più geniale dei. Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, traduzione di Alfredo Polledro. E a un tratto mi vendicai nel più semplice, nel più geniale dei modi. Mi venne a un tratto un pensiero luminosissimo. A volte, nelle feste, me ne andavo fra le tre e le quattro sul Nevskij e passeggiavo dalla parte del sole, cioè non ci passeggiavo affatto, bensì sperimentavo innumerevoli tormenti, avvilimenti e travasi di bile. Ma di ciò, appunto, avevo probabilmente bisogno. Sgusciavo fra i passanti come un muggine, nel modo meno bello, cedendo continuamente il passo ora a generali, ora ad ufficiali dei cavalieri della guardia e degli ussari, ora a signore. In quei momenti sentivo dei dolori convulsi al cuore e un gran calore, un calore nella schiena, al solo immaginarmi la meschinità del mio abbigliamento, la meschinità e la volgarità della mia sgusciante personcina. Questo era un tormento da martire, una continua, intollerabile umiliazione al pensiero, trasformato in continua e immediata sensazione che io ero una mosca di fronte a tutto quel mondo, una schifosa, inutile mosca, più intelligente di tutti, più evoluta di tutti, più nobile di tutti, questo va da sé, ma una mosca che incessantemente cedeva a tutti, da tutti umiliata e da tutti offesa. A che scopo mi procuravo questo tormento? A che scopo andavo sul Nevskij? Non lo so. Ma c'era semplicemente qualcosa che mi ci attirava là, ad ogni minima possibilità. Allora, avevo già cominciato a provare degli accessi di quelle voluttà di cui ho parlato fin dal primo capitolo. Dopo la storia dell'ufficiale, poi, qualcosa prese ad attirarmici ancora più fortemente. Sul Nevskij, appunto, lo incontravo con maggiore frequenza. Lì, appunto, lo ammiravo. Lui pure ci andava, soprattutto nelle feste, sebbene anche lui deviasse davanti ai generali e davanti alle persone particolarmente imponenti, e anche lui guizzasse come un muggine in mezzo a loro. Tuttavia, quelli come noi altri, o anche un po' meglio di noi altri, semplicemente li schiacciava. Andava loro addosso come se davanti a lui ci fosse uno spazio vuoto e in nessun caso cedeva loro la strada. Io mi ubriacavo del mio rancore guardandolo e ogni volta deviavo rabbiosamente davanti a lui. Mi tormentava il fatto che perfino sulla via non riuscivo in nessuna maniera a stare alla pari con lui. Come mai devi infallantemente per primo? Mi domandavo con insistenza in un furioso accesso isterico, svegliandomi a volte verso le tre di notte. Come mai? Come mai proprio tu e non lui? Non c'è mica una legge per questo. Non è mica scritto in nessun posto, no? Si faccia dunque un po' per uno, come accade di solito quando si incontrano delle persone compite. Lui ceda per metà e anche tu per metà. E passerete, rispettandovi a vicenda fra voi. Ma così non era. Non era. E tuttavia deviavo io. E lui? Lui? Ma lui nemmeno si accorgeva che io gli cedessi. Ed ecco che un pensiero meraviglioso mi illuminò tutta un tratto. E se... mi venne in mente. E se mi incontrassi con lui e... e non mi facessi da parte. Se non mi facessi da parte apposta, anche se mi toccasse urtarlo. Che cosa succederebbe? Questo pensiero temerario a poco si impadronì di me a tal segno che non mi dava pace. Ne fantasticavo senza interruzione, straordinariamente, e andavo apposta più spesso sul Nevskij per figurarmi con chiarezza ancora maggiore come l'avrei fatto quando avessi avuto a farlo. Ero in estasi. Questo proposito mi sembrava sempre più verosimile e possibile. E si intende, non urtarlo proprio, pensavo facendomi già anticipatamente buono dalla gioia, ma così, semplicemente, non farmi da parte, scontrarmi con lui non in modo da fargli molto male, ma così, spalla contro spalla, giusto quel tanto che è stabilito dalle convenienze, sicché di quanto lui urterà me, io urterò lui. Infine, mi decisi definitivamente. Ma i preparativi presero moltissimo tempo. La prima cosa era che durante l'esecuzione bisognava avere l'aspetto più decoroso possibile e a preoccuparsi del proprio abbigliamento. Per qualunque circostanza, se per esempio ne nascesse un incidente pubblico e la gente lì è sopraffina, ci passa una contessa, ci passa il principe di, e ci passa tutta la letteratura, è necessario essere ben vestito. Questo fa impressione e senz'altro ci metterà in certo modo allo stesso livello agli occhi dell'alta società. A questo scopo chiesi un anticipo sullo stipendio e comprai dei guanti neri e un bel cappello da Churkin. I guanti neri mi sembravano più posati e più di buon gusto che quelli color limone sui quali avevo messo gli occhi da principio. È un colore troppo spiccato, come se uno volesse mettersi troppo in vista, e non presi quelli color limone. Una bella camicia con dei gemelli bianchi di osso l'avevo preparata già da tempo, ma mi trattenne a lungo il cappotto. Per se stesso il mio cappotto non era affatto brutto. Mi teneva caldo, ma era foderato di ovatta e il bavero era di procione, e che era addirittura il colmo della trivialità. Bisognava cambiare il bavero a qualunque costo e metterne su uno di castoro, del genere di quelli che portano gli ufficiali. Perciò cominciai a girare per il Gastini Hitvor e dopo alcuni tentativi presi di mira un bavero di castoro tedesco a buon mercato. Questi baveri di castoro tedeschi, sebbene si logorino molto rapidamente e assumano un aspetto assai misero, da principio però, appena rinnovati, hanno un'aria perfino molto decorosa. E a me poi occorreva per una sola volta. Domandai il prezzo, era pur sempre caro. Dopo approfondita riflessione mi decisi a vendere il mio bavero di procione. La somma mancante, per me assai considerevole, decisi di chiederla in prestito ad Anton Antonich Setokin, mio capo ufficio, uomo umile ma serio e positivo, che non dava denaro in prestito a nessuno, ma cui un tempo, all'entrata in servizio, ero stato particolarmente raccomandato dal personaggio importante che mi aveva fatto assumere. Soffrivo terribilmente. Chiedere denaro mi sembrava mostruoso e vergognoso. E per 2 o 3 notti non dormì nemmeno, e in generale allora dormivo poco, avevo la febbre. Il mio cuore aveva dei vaghi mancamenti. Oh, tutt'a un tratto cominciava a sobbalzare. Anton Antonovich dapprima si meravigliò, poi si accigliò, poi rifletté e tuttavia mi fece il prestito. Essendosi fatto rilasciare da me una ricevuta che gli dava diritto di riavere, dopo 15 giorni, detraendolo dal mio stipendio, il denaro datomi in prestito. Così tutto era finalmente pronto. Un bel bavero di castoro si intronizzò al posto dell'ignobile procione. E a poco per volta io cominciai a passare all'azione. Non era mica possibile decidersi di primo tratto a casaccio. Questa faccenda bisognava combinarla sapientemente, appunto, a poco per volta. Ma confesso che dopo reiterati tentativi cominciai perfino a disperare. Non ci scontravamo in nessuna maniera. Basta, non ero certo io che non mi preparavo, non era certo a me che veniva in meno l'intenzione. Sembrava che da un momento all'altro ci scontrassimo. Guardavo e di nuovo avevo ceduto il passo, sicché lui era passato senza notarmi. Dicevo perfino delle preghiere avvicinandomi a lui e perché Dio mi infondesse risolutezza. Una volta mi ero già proprio deciso. Ma finì che gli capitai soltanto fra i piedi, perché all'ultimissimo istante, a una distanza di forse 2 palmi, mi venne meno il coraggio. Lui mi rasentò tranquillissimamente e io come una palla rimbalzai da una parte. Quella notte fui nuovamente malato con la febbre ed ebbi il delirio. E a un tratto tutto terminò come meglio non poteva. Nella notte precedente avevo definitivamente stabilito di non mettere in pratica il mio funesto proposito e di lasciare andare tutto, e con questo scopo andai per l'ultima volta sul Nevskij, così, per vedere come mai lasciavo andare tutto questo. A un tratto, a 3 passi dal mio nemico, inaspettatamente mi decisi, strinsi gli occhi e ci scontrammo fino a toccarci, spalla contro spalla. Io non cedetti nemmeno di un palmo e passai oltre con piena eguaglianza. Lui non si voltò neppure a guardare e fece finta di non avermi notato, ma fece soltanto per finta. Ne sono sicuro. Anche adesso ne sono sicuro. Si intende che a me toccò la peggio. Lui era più forte. Ma si trattava di ben altro. Si trattava di questo. Che io avevo raggiunto lo scopo. Avevo mantenuto la mia dignità. Non avevo ceduto nemmeno di un passo. E pubblicamente mi ero messo allo stesso livello sociale con lui. Tornai a casa, pienamente vendicato di tutto. Ero in estasi, ero trionfante, cantavo delle arie italiane. Si intende che non vi descriverò quello che mi accadde di lì a 3 giorni. Se avete letto il mio primo capitolo, Il sottosuolo, potete indovinarlo voi stessi. L'ufficiale poi lo trasferirono non so dove. Ora, sono circa 14 anni che non l'ho più veduto. Che fa ora il mio carissimo ufficiale? Chi sta schiacciando? Ma la fase della mia depravazione ocula era terminata. e mi era venuta una nausea tremenda. Subentrava il pentimento e lo scacciavo. Troppo ormai ero nauseato. A poco, tuttavia, mi abituavo anche a questo. Mi abituavo a tutto, cioè non che mi abituassi, ma consentivo come volontariamente a sopportare. Ma avevo una via d'uscita che conciliava tutto, quella di cercare scampo in tutto ciò che è bello e sublime. Naturalmente, nei miei sogni. Sognavo enormemente. Sognavo magari 3 mesi di seguito, dopo essermi cacciato nel mio angolo. E credete pure che in quegli istanti non somigliavo al Signore che nel tumulto del suo cuore di gallina cuciva al bavero del proprio cappotto il castoro tedesco. Divenni tutta un tratto un eroe. Il mio tenente alto 1,90 allora non lo avrei lasciato venire da me nemmeno a farmi visita. Allora non potevo nemmeno figurarmelo. Che cosa fossero i miei sogni e come me ne potessi contentare è difficile dirlo ora, ma allora me ne contentavo. Del resto anche ora in parte me ne contento. Particolarmente dolci e forti, i sogni mi venivano dopo la mia depravazionucola. Mi venivano col pentimento e le lacrime, con le maledizioni e le estasi. C'erano degli istanti di così autentica ebbrezza, di tale felicità, che dentro di me, lo giuro, non si sentiva nemmeno la più piccola irrisione. C'era la fede. La speranza, l'amore. Il fatto è appunto che allora io credevo ciecamente che per un qualche miracolo, per una qualche circostanza esteriore, tutto si sarebbe a un tratto dischiuso, dilatato. A un tratto si sarebbe presentato un orizzonte di adattata attività benefica, bellissima e soprattutto belle pronte. Quale precisamente non l'ho mai saputo, ma soprattutto bella e pronta, ed io sarei comparso a un tratto alla luce del mondo, poco meno che su un cavallo bianco e con una corona di alloro. Una parte secondaria non la potevo nemmeno capire, ed appunto per questo, nella realtà, tranquillissimamente sostenevo l'ultima. O eroe, o fango. Una via di mezzo non c'era. Questo appunto mi ha perduto, perché nel fango mi consolavo pensando che in un altro momento volevo essere un eroe. E l'eroe nascondeva il fango. E l'uomo ordinario ha vergogna di infangarsi. E l'eroe è troppo alto per infangarsi del tutto. Per conseguenza, dicevo, ci si può infangare. È degno di nota che questi afflussi di tutto ciò che è bello e sublime mi venivano anche durante la mia depravazionucola, e precisamente quando mi trovavo già al punto più basso. Mi venivano così, a piccoli sprazzi separati, come per farmisi ricordare. Ma tuttavia non distruggevano quella depravazionucola con la propria apparizione. Al contrario. Dio. Sembrava che la ravvivassero col contrasto. E venivano giusto per quel che era necessario ad un buon condimento. Il condimento qui si componeva di contraddizione e di sofferenza, di tormentosa analisi interiore. Ed erano appunto tutti questi tormenti grandi e piccoli che conferivano un certo piccante e perfino un senso alla mia depravazionucola. Insomma, compivano pienamente l'ufficio di un buon condimento. Tutto questo, anzi, non mancava di una certa profondità. E del resto, avrei mai potuto accontentarmi di una semplice, volgare, immediata depravazionucola da scrivano e sopportare addosso a me stesso tutto questo fango. Allora, che cosa avrebbe potuto sedurmi in esso e attirarmi di notte sulla via? No. No, signori, io ho una nobile scappatoia per ogni cosa. Ma quanto amore, signori, quanto amore mi accadeva di provare in questi miei sogni, in queste fughe verso tutto ciò che è bello e sublime, anche se era un amore fantastico, anche se in pratica non si applicava mai a nulla di umano. Ce n'era però tanto, tanto di questo amore, che poi in pratica non sentivo nemmeno più il bisogno di applicarlo. Questo sarebbe stato ormai un lusso superfluo. Tutto, del resto, terminava sempre felicissimamente in un pigro e inebriante passaggio all'arte, cioè alle forme estetiche già pronte dell'esistenza, fortemente plagiate ai poeti e ai romanzieri e adattate a ogni possibile servizio ed esigenza. Per esempio, io trionfavo su tutti. Tutti, si intende, erano ridotti in polvere e costretti a riconoscere spontaneamente tutte le mie perfezioni. E io li perdonavo tutti. Essendo un famoso poeta e ciambellano, mi innamoravo. Ricevevo una quantità innumerevole di milioni e all'istante li sacrificavo per il genere umano. E subito confessavo davanti a tutto il popolo le mie ignominie, le quali, si intende, non erano semplicemente ignominie, ma racchiudevano in sé una straordinaria quantità di bello e sublime. Qualcosa alla Manfredo. Tutti piangevano e mi baciavano, altrimenti che razza di bestioni sarebbero stati? E io andavo scalzo e affamato a predicare le nuove idee e sconfiggevo i retrogradi sotto Austerlitz. Poi si suonava una marcia, si promulgava un'amnistia, il Papa acconsentiva a partire da Roma per il Brasile, poi c'era un ballo cui tutta l'Italia era invitata, a Villa Borghese, che era in riva al lago di Como, e già che il lago di Como, apposta per quell'occasione, si trasferiva a Roma. Poi c'era una scena fra i cespugli e così via, così, così via. Così. Non lo sapete, forse. Voi direte che è volgare e vile mettere in piazza tutto questo, dopo tante ebbrezze e lacrime che io stesso ho confessate. Ma perché è vile? Perché? Pensate forse che mi vergogni di tutto ciò? E che tutto ciò sia stato più stupido di qualsivoglia altro caso della vostra vita, signori? E inoltre, credetemi, qualche cosuccia l'avevo proprio messa insieme discretamente. Non tutto poi avveniva sul lago di Como, ma del resto avete ragione. Effettivamente è una cosa volgare e vile. E più vile che mai è che ora io abbia cominciato a giustificarmi dinanzi a voi. E ancora più vile è che ora io faccia questa osservazione. Basta! Del resto, se no già non si finirebbe mai. Una cosa sarebbe sempre più vile dell'altra.